Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Insieme a me non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Il PD è ancora un partito di centrosinistra? È un partito di centro che guarda da tutte le parti? Queste sono le domande di questi giorni. La mia non è polemica, non c'è nessuna intenzione di bloccare Renzi, mi blocco io. Che non so trovare in questo mondo. Per me la questione è molto radicale ormai, è un punto di non ritorno. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa. Allora, onorevole Pippo Civati, buongiorno, finalmente libero? Beh, direi la tenerezza che non trovo in questo mondo stupido, diciamo. Sì. Libero da cosa? Ma libero da uno schema politico che ho sempre contrastato, che ho cercato di, come dire, contrastare appunto con le armi dell'argomentazione, del ragionamento. Vabbè, non servono questo... più adesso secondo lei quelle armi. Senta, Renzi, no, diciamo, l'ha chiamato? Renzi l'ha chiamata? No, Renzi non mi ha chiamato, ho letto delle dichiarazioni di alcuni dei suoi... Mm. Molto gentili, che puntano a riappacificarci, cioè prima ti menano e poi ti dicono però facciamo la pace. Senta, famiglia capita spesso. Senta, ma il rapporto è rotto solo sul piano politico o anche su quello personale? No, sul piano personale, ripeto, io sono stato tra i primi a conoscere Renzi, forse sono, è per questo che sono anche tra i primi a mollarlo, diciamo. Ho elaborato prima di altri un giudizio su di lui, però insomma non ho nessun problema personale, solo il dispiacere che abbia scelto di fare un partito che insomma non era quello che ci eravamo detti alla prima Leopolda. Ecco, ma alla prima Leopolda voi eravate gemelli siamesi, lei cosa non aveva capito di Renzi allora? Non eravamo gemelli siamesi. Beh, insomma, eravate insieme, diciamo. Ero quello seduto a sinistra già allora. Ah, vabbè, ok. Dipende da dove si guarda la sinistra. No, guardi, in quel caso ero a sinistra da tutti i punti di vista. Comunque... Cos'è che non aveva capito? No, non è che non avessi capito, l'idea era quella di avere una piazza partecipata, una democrazia aperta, quasi assemblearista, quindi tutto il contrario di quello che è diventato il PD, una confluenza di giovani che avevano idee diverse, che volevano confrontarsi su quelle idee, non avere delle idee imposte dall'alto, perché quello eravamo già abituati alla stagione precedente, e una modernizzazione del paese che non passasse soltanto a eliminare quelli che c'erano prima, ma anche da costruire qualcosa di nuovo. Vabbè, questo insomma magari è quello che sta cercando di fare. Lei al Corriere della Sera ha detto che Bersani, e mi è piaciuta questa sua osservazione, ha affrontato l'arrivo di Renzi come le società precolombiane i conquistadores. Esattamente cosa vuol dire? Vuol dire che Bersani, che è una persona seria, io stimo molto, ha pensato di confrontarsi con Renzi in un gioco trasparente, limpido, parlando di politica. Renzi invece si è semplicemente messo al potere facendo fuori Letta e costruendo una leadership che non consente ad altre leadership, ad altre figure, non solo di emergere ma di discutere. Però, o sei d'accordo con lui o sei fuori. Ecco, lei però lo conosceva, l'abbiamo detto, la Leopolda, eravate lei se vuole a sinistra ma eravate insieme. È cambiato lei o è cambiato lui? Secondo me, qualche elemento già allora c'era di quella giornata, perché poi, come ricorderai, è durato pochissimo il periodo di collaborazione. Sì. Lui andò ad Arcore, ci furono un po' di polemiche, divenne il migliore amico di Marchionne, insomma, fece delle scelte molto personali, come spesso gli capita. Forse non è cambiato nessuno dei due, forse tutti e due abbiamo in mente un progetto di cambiamento del paese, solo che pensavate di influenzarvi a vicenda e non è andata così. Senta, la nuova legge elettorale però, quella che è stata approvata l'Italicum, non favorisce i partitini dello zero virgola. Allora avanti con Landini? No, guardi, avanti con Civati, se posso dirlo, perché adesso non è che... No, nel senso che poi tutti adesso cercano di mettermi in cose che già ci sono, invece io voglio fare una cosa che non c'è, altrimenti non avrei preso questa decisione. Per me in Italia le sigle che ci sono già o si stanno trasformando come il Partito Democratico in un partito della nazione proprio attraverso l'Italicum, oppure sono sigle che sono secondo me datate dal punto di vista proprio storico-politico, per cui facciamo qualcosa di nuovo. Non è proprio vero che l'Italicum sfavorisce i piccoli partiti, che c'è un primo turno voglio spiegare questo però perché per me è rilevante, nel quale ognuno può votare quello che preferisce davvero, perché poi c'è un secondo turno che serve certo, per scegliere leader. A me l'Italicum non piace per niente, ma non è un sistema che io vivo male. L'avrei fatta comunque questa scelta col maggioritario uninominale, col proporzionale, non mi cambia niente. Senti, la abbiamo un, senta, onorevole Civati, abbiamo un SMS da Napoli. Sono Paolo di Napoli. Potreste dire a Civati di dimettersi dal Parlamento, non solo dal partito, visto che appartiene ai nominati? Cosa risponde a Paolo? Guardi, se ha 6 o 7 ore le rispondo volentieri, sì. Diciamo che sintetizzo così, sì. Intanto io ho fatto le primarie in Lombardia e sono stato il più eletto. In secondo luogo io sono fedelissimo al mandato elettorale, molto più di quelli che adesso guidano il PD. Perfetto. In terzo luogo hanno cambiato gruppo tutti, io lo cambio, come dire, per ultimo, perché non, il mio stesso gruppo si è trasformato, quindi ricorderò a Paolo con grande simpatia, sì, che questo governo si regge sul fatto che ci sono stati trasformismi, certo, interi gruppi. Se non ci fosse Alfano non ci sarebbe Renzi. Senta, poi lo posso anche fare, però non c'è, sì, no, vabbè, era una risposta. Quello che io propongo a tutti quelli che hanno cambiato gruppo è che facciano tutti come ci va, si dimettano, sì, certo, così andiamo a votare. Senta, in molti paesi però si guarda, leggendo i giornali, all'Italicum come una cosa da studiare, forse da seguire. In fondo poi la legge elettorale ideale non esiste. Sì, non è, sì, obiettivamente, esistono, vediamo, esistono, adesso in Inghilterra, sì, legge, bipartitismo in crisi, insomma non è così semplice. La legge elettorale ideale non esiste, quelle brutte però si riconoscono subito, tipo l'Italicum. Vabbè. Senta, e qual è quella che le piace di più, allora, dovendo scegliere un paese, un modello, se fosse possibile? Il paese che mi piace di più è la Francia, dove se decidono di fare il presidente lo fanno con il semipresidenzialismo e non con quello che facciamo noi alla matriciana. Senta, onorevole Civati, un'ultima cosa, secondo lei quando si voterà? Ma guardi, Renzi ha di fronte a sé il Parlamento più accondiscendente della storia repubblicana, quindi non so se ha tutta questa esigenza di andare a votare. Dipende un po' dalle cose che abbiamo sentito nel vostro notiziario e nei 100 secondi, perché in realtà la cosa che sta venendo fuori che è quello che io chiamo House of Three Cards, cioè la casa delle tre carte, sta dando cifre che non sono sostenibili. Continua a promettere, anche questo piano povertà non si riesce a capire chi lo finanzierà, non si riesce a capire se riusciamo a certo evitare. Questa cosa delle pensioni poi è veramente quindi dipenderà da quello. Dal punto di vista politico Renzi ha ottenuto il suo risultato, il PD è un partito del modello De Luca. Va dalla sinistra a qualcuno che addirittura la senta. Un'ultimissima cosa, perché siamo in chiusura, c'è Mario Secchi che vuol fare una domanda. Buongiorno. Civati, buongiorno. Secca, lei auspica lo scioglimento di SEL e la formazione di un nuovo soggetto? Io auspico la formazione di un nuovo soggetto in cui tutti quelli che si riconoscono in una politica banalmente di sinistra, niente di più, si possono ritrovare con percorsi democratici e forse forme organizzative nuove. Quindi SEL deve sciogliersi, sì o no? Ma SEL mi pare che abbia già detto che che se c'è un processo che si avvia in quella direzione si scioglierà, però non sono io a sciogliere, certo, altri partiti. Naturalmente. Grazie. Mi sono sciolto da solo per ora. Per adesso, diciamo, è più serio. Sì, grazie onorevole Civati, buon lavoro. Sono i giovani a pagare il prezzo più alto della crisi economica in Italia. Lo confermano i dati Istat che fotografano ancora un aumento della disoccupazione tra i 15 e i 24 anni di età. In Italia i giovani che non studiano e non lavorano sono quasi 2 milioni. L'Unione Europea ha lanciato a tutti gli Stati membri la missione YEI, con l'obiettivo di trasformare i giovani che non lavorano e non studiano in giovani occupati. Per questo, dal 1 maggio 2014 in Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assieme alle regioni, supporta i NEET con il piano Garanzia Giovani. Qui i giovani vengono indirizzati verso opportunità di lavoro, di tirocini o attività formative. Noi abbiamo preparato gli strumenti. E tu che fai? Accetti la sfida? Però questo sito obiettivamente non funziona. I ragazzi si iscrivono ma non vengono mai contattati. Le aziende neanche lo conoscono. I soldi ci stanno e li state spendendo, ma sicuramente non stanno arrivando a noi giovani. Questi sono soldi pubblici. E noi vogliamo sapere che fine stanno facendo. Mi racconti qual è stata la tua esperienza con Garanzia Giovani? Sì, mi sono iscritto al programma a settembre dello scorso anno. A gennaio sono andato a informarmi perché nessuno mi chiamava. Ti risultavo come bloccato, una specie di limbo, e nessuno mi aveva preso in carico. Io fra 10 giorni finirò il tirocinio. No, non me l'ha trovato Garanzia Giovani, non me l'ha trovato il centro per l'impiego, me lo sono trovato da solo. Garanzia Giovani ha soltanto palesato le inadempienze. La garanzia non la danno ai giovani, la danno alle aziende che hanno manodopera gratuita. Se non trovano lavoro i giovani, l'Italia è finita. Ecco, tanti, tantissimi ragazzi, però, come abbiamo sentito, dicono che Garanzia Giovani è molto problematica. Una di loro è Nancy Aiello, 29 anni, laureata in storia, in lettere moderne, attualmente lavora come cameriera e scrive un blog sul web. Ecco, Nancy, quando hai pensato di utilizzare il programma Garanzia Giovani? Subito dopo la laurea magistrale. E come sei venuta a conoscenza dell'esistenza di Garanzia Giovani? Me ne ha parlato mia sorella, che però era ancora studentessa e quindi non poteva iscriversi e insomma mi ha dato un consiglio, certo. E poi che cosa hai fatto? Mi sono iscritta alcuni mesi dopo. In realtà, e sei andata a un centro per l'impiego? Ti chiamano loro dopo l'iscrizione, passa circa un mese e ti fissano un appuntamento. E quando sei andata lì cosa ti hanno detto? Niente, l'appuntamento dovrebbe essere un colloquio, poi in realtà per lì non è un vero colloquio, ci fanno compilare dei moduli con tutti i dati, insomma vogliono il curriculum eccetera eccetera, e elenchi le tue aspirazioni, quello che vorresti fare e cosa ti aspetti dall'eventuale tirocinio. E ti hanno richiesto qualcosa, dei criteri specifici, qualcosa? No, no, l'importante è non essere iscritti a niente, né all'università né a corsi di formazione, ed essere disoccupati o comunque insomma nel reddito minimo. Però dal momento in cui si sono resi conto che ero laureata e tutto, anche se il programma Garanzia Giovani è aperto ai laureati, mi hanno detto chiaramente che non avrei fatto niente. Perché i laureati? Niente, meglio non studiare, Sì, praticamente sì, perché loro fanno ti calcolano un indice di profilazione in base al quale poi le aziende dovrebbero scegliere i ragazzi. Chi è laureato, ha esperienza all'estero, io ho fatto l'Erasmus, presume che abbia delle esigenze troppo alte e non lo vogliono. Sì, quindi insomma ci mettono uno praticamente, invece per essere chiamati dovresti avere quattro o tre. Cioè se sei laureato, se sei le lingue, se hai girato il mondo, ti danno uno. Sì. Ma alla fine un lavoro te l'hanno trovato o no? Alla no. fine, no, sempre durante quel colloquio mi hanno detto che insomma se l'avessi trovata io un'azienda, poi alla fine del processo, perché devono passare quattro mesi dal colloquio, insomma all'inserimento, se l'avessi trovata, insomma. Beh, se ti trovavi qualcosa. Il lavoro da solo, loro non si opponevano, questo è il punto. Infatti io mi sono anche innervosita parecchio, perché ho detto insomma se sono venuta da voi perché non lo trovo il lavoro, trovo il tirocinio, cioè, se no stavo a casa. Ma e poi ti sei trovata un lavoro da sola? Ho trovata l'azienda che vuole farmi fare il tirocinio, però insomma è ancora in corso d'opera il tutto, perché c'è la regione che non sblocca i contratti. Cioè un'azienda che lavora per la regione e non ti fa, la regione non ti fa il contratto, perché? Perché sei laureata, perché sai le lingue, hai girato il mondo? No, allora, con l'azienda non ho nessun problema, però siccome tutto passa tramite centri per gli impieghi e singole regioni, perché l'eventuale stipendio che prende il tirocinante è pagato dallo Stato, certo. L'azienda non mette un euro, devono comunque aspettare l'autorizzazione della regione o di chi si indichi che sia. Quindi la regione dovrebbe pagare il contratto, ma continua a rimandare. Sì, non si sa perché nella mia regione ancora non parte. Che regione è la tua, scusa? Finito, l'Abruzzo. No, no. Ma che tipo di lavoro farai, se mai potrai cominciare? Ma a me è andata bene, perché farò la segretaria per dei commercialisti, quindi non è insomma attinente ai miei studi, ma bene o male la segretaria. Cioè è già meglio che la cameriera, dici? Sì, però nelle liste pubblicate sempre per quanto riguarda la mia regione, delle aziende che avevano aderito al progetto, si trovano quasi solamente bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, non si trova altro. Nancy, il centro per l'impiego a cui ti eri rivolta all'inizio di questa Via Crucis, perché mi sembra che sia stata una Via Crucis. È lunga la cosa, Che cosa ti risponde? Ti aiuta con la regione per avere almeno il contratto che ti fa la società, e quindi loro non devono fare praticamente niente, devono solo dire fategli sto contratto? No, in realtà no, cioè, è stata la persona che vuole assumermi a chiamare più volte il centro per l'impiego per dire perché qua non si parte. E cosa rispondono? Che dipende dalla regione e non dal singolo centro, quindi insomma. Quindi i centri per l'impiego nel tuo caso non sono serviti a niente, un po' a frenare il tuo lavoro? No. Aspetta, dovrei iniziare a breve, però sto ancora aspettando notizie, roba di 10 giorni, però il contratto ancora non. Ma scusa, avrai tanti amici che avranno cercato anche loro lavoro attraverso i centri per l'impiego. Quali sono le offerte di lavoro che si trovano in questi centri per l'impiego, se ci sono delle offerte di lavoro reali? Guardi, sinceramente non lo so, perché io mi ci sono rivolta solo tramite Garanzia Giovani e le aziende che hanno aderito appunto in realtà sono quasi solo attività commerciali, quindi il cameriere e il barista già lo facciamo. Senza il centro per l'impiego, va bene. Ecco, noi 6 mesi fa avevamo intervistato Andrea De Spirt, un ragazzo che il lavoro se l'è inventato con una startup che si chiama Job Your Life. Ecco Andrea, buongiorno. Buongiorno. Hai sentito l'esperienza di Nancy? Il portale Job Your Life serve a evitare questi problemi? Assolutamente sì, in Job Your Life non c'è alcun tipo di intermediario. Perché come funziona il portale? Per riassumerlo, va a invertire il processo per cercare lavoro online, cioè non sono le candidate a doversi candidare ad annunci di lavoro, ma sono direttamente le aziende a contattare poi le persone. Quindi saltate il passaggio dei centri per l'impiego? Assolutamente, assolutamente. Il contatto con le aziende è assolutamente diretto e una volta che una persona riceve una proposta da un'azienda, quindi l'azienda prima visionato il profilo della persona, la persona può accettare o rifiutare. Se rifiuta non succede nulla, se accetta va direttamente al colloquio con l'azienda. E questo è il vostro, valore aggiunto, si accorcia la catena. Certo, assolutamente. Ecco, sì. Noi abbiamo raccontato la sua storia al ministro del lavoro Giuliano Poletti a novembre dello scorso anno durante un faccia a faccia. Questo era stato il suo impegno. Ministro Poletti, in pochi mesi si sono iscritti 300.000 lavoratori e, un dato ancora più interessante, 600 imprese. Non è meglio chiamare gente così per risolvere il problema? Certamente anche questo. Infatti noi prevediamo che ci sia una collaborazione piena tra queste idee, tra queste proposte, quelle che stanno facendo agenzie e soggetti che fanno questo lavoro e le agenzie pubbliche. Io lo chiamerei uno così. Ma lo chiamo sì sicuro, non c'è nessun problema, anzi io credo che tutte le proposte che vengono in questo senso vanno assolutamente accolte. Chi li gestisce quel 1,5 miliardi della garanzia giovani? Le gestiscono le regioni. In Italia c'è una norma costituzionale che dice che la formazione e il lavoro competono alle regioni. Allora glielo consigli lei alle regioni delle persone così? Perché è un esempio concreto. Assolutamente convinto di sì, e infatti noi dobbiamo usare tutto quello che di nuovo c'è e di utile c'è in questa direzione. Su questo assolutamente nessun limite. La faccio cercare allora. Sì, molto volentieri. Sì. Ecco, l'ha cercata, l'ha trovata, vi ha incontrato il ministro? Ci ha incontrato, abbiamo fatto un bel incontro, devo dire, a Roma con il ministro Poletti, dove appunto l'intento era quello di collaborare con noi per aiutare più persone possibile a trovare lavoro. Ecco, intanto a ottobre gli iscritti, l'abbiamo detto, a Job Your Life erano 250.000, oggi quanti sono? Oggi siamo praticamente all'arrivo di 500.000. E quante aziende sono iscritte? Sono più di 1.200 aziende iscritte che attualmente utilizzano il portale. E abbiamo creato fino adesso più di 25.000 contatti che da noi sono possibili colloqui, perché l'azienda ovviamente ha prima visto il curriculum della persona. Ecco, spiegate quanti colloqui si sono realizzati? Appunto, come dicevo, riteniamo più di 25.000. E sapete anche il numero di lavori creati? Avete un ritorno di numeri? Il dato in questo momento non possiamo ottenerlo perché noi arriviamo al contatto, però certo, ad esempio anche ieri due aziende, una multinazionale e un'azienda, ci hanno chiamato contenti che avevano già trovato la persona e che erano molto contenti del servizio. Senta, ma nel frattempo col ministero, abbiamo sentito quello che ha detto Poletti, non è più capitato niente o siete andati avanti? No, purtroppo non è più capitato niente, nel senso che noi avevamo preparato il tutto, la presentazione su come poter collaborare appunto con Garanzia Giovani, ma poi alla fine non si è concretizzato nulla. Senta, dottor Salvatore Pirrone, buongiorno, direttore generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro, la formazione del Ministero del Lavoro. Ecco, esperienza, lei era presente, no? All'incontro c'era anche lei. Esperienze così sono realtà utili da implementare oppure no? E se sì, come? Sono utilissime, devo dire che De Spirt e i suoi collaboratori ci hanno fornito un buon punto di vista e anche delle idee interessanti. Ovviamente l'azienda in questione non è l'unica che no, naturalmente, è un esempio. Privati, è un esempio. Ce ne sono diversi e i centri per l'impiego sono intermediari pubblici. Ovviamente i centri per l'impiego non. Però abbiamo sentito la storia della ragazza che, insomma, ce ne sono tante così. C'è questo allungamento della catena, non è che favorisca tanto. Io non credo che sia un allungamento della catena. Adesso De Spirit ha citato i suoi dati sui 20.000 contatti. Io vorrei far notare che noi abbiamo 527.000 iscritti a Garanzia Giovani e ci sono stati 286.000 colloqui. Dopodiché l'idea di De Spirit non è stata, diciamo, abbandonata, al contrario, noi pensiamo che sia un'idea interessante, che sia utile ragionare al contrario di come abbiamo ragionato nel passato, cioè invece di farci dare le vacanze delle aziende da parte dei soggetti che operano nel settore e per i quali le vacanze sono, diciamo, il pane quotidiano, noi pensiamo, assecondando l'idea di De Spirit, che sia utile invece dare a tutti gli operatori, anche privati, i dati dei ragazzi che si sono iscritti a Garanzia Giovani. Di quei 508.000, dice lei? I 527.000. 27.000, io avevo un altro dato. 527.000, ecco, lei dice che la collaborazione su che piano si può realizzare con quelli come De Spirit, lui e le altre iniziative validate, diciamo così? Allora, la collaborazione che noi abbiamo approfondito, tra l'altro, con le associazioni di rappresentanza di questo settore può funzionare in questi termini. Noi abbiamo già inserito nella nostra procedura di registrazione dei ragazzi la possibilità di prestare il consenso alla trasmissione dei dati personali ad altri operatori che operano nel settore. Ecco, però, dottore, quindi i ragazzi che si registrano possono indicare questa possibilità. Ecco. E in questo senso noi mettiamo poi a disposizione degli operatori autorizzati, che quindi iscritti all'albo degli intermediari, i dati dei ragazzi di Garanzia Giovani. Senta, però, una procedura ancora da fare, non perfetta. Ecco, ma però se un ragazzo, lei ha sentito la storia di Nancy, cioè è molto semplice, da solo si è trovato al lavoro, poi la regione che deve stipulare il contratto, perché è sempre la regione che paga il lavoratore, e la regione tarda, e quindi lei non solo si è trovato al lavoro da solo, ma poi non riesce a fare il contratto perché qualcosa non funziona in questo meccanismo. Beh, lei si è trovato il lavoro da solo, però anche grazie, diciamo, a un incentivo che sta nel sistema di Garanzia Giovani, senza il quale probabilmente il contratto non riesce ad averlo perché evidentemente le cose non si fanno in un mese, il processo è molto complesso, la regione Abruzzo in particolare è partita un po' tardi anche per ragioni di carattere politico, ci sono state le elezioni, d'accordo. È ripresa negli ultimi e quindi lei settimane. A quelli come De Spirit che cosa dice? Avete cominciato un discorso, come continua e come si spera di concludere? A quelli come De Spirit noi stiamo per scrivere dicendo che qual è la procedura per accedere ai dati di Garanzia Giovani, che sarà una procedura un po' meno automatizzata all'inizio, ma che già dalla fine di giugno permetterà un collegamento, diciamo, puntuale con il sistema informativo di Garanzia Giovani per lo scarico e il refresh, diciamo, dei dati in tempo reale. Senta, dice Fabio da Latina, ci scrive, il problema è che non pagano questi giovani in tirocinio, le regioni non li pagano perché le regioni usano i soldi per esigenze di cassa, è possibile? No, questo non è possibile perché in realtà diciamo, noi abbiamo concesso degli anticipi sul finanziamento alle regioni e le regioni sono vincolate a utilizzare questi soldi per... Va bene, quindi lei dice non è possibile. Un'ultimissima cosa, De Spirit, allora? Soddisfatto del discorso del dottor Pirrone? Credo che l'obiettivo deve per forza essere comune, nel senso dobbiamo trovare lavoro naturale, quello è l'obiettivo. Quindi credo che sia l'obiettivo di entrambi, quindi io penso che bisogna un po' velocizzare, appunto. Insomma, parlatevi di più, parlatevi di più fra tutti voi, più in fretta, così riusciremo a dare una mano a questa tragedia nazionale. Grazie, pubblicità. Mix 24. allora, Pietrangelo, in metropolitana cosa capitava? Il numero 1000. Erano in 1000 oggi in metropolitana. Ed erano tutti di blu vestiti. Ed erano in fatture stile di grande pregio. Ed erano 1000 e non più sbarcati, ma partiti tutti dalla Sicilia. 1000 radunati in via Siracusa a Palermo, capitanati da uno scrittore il cui cognome, traslitterato in arabo, evoca il becco di un uccello sentimentale cercatore. Erano 1000 vestiti di tutto punto e battezzati col nome Memoria, in abiti a misura di forziere, 12x17 centimetri, 1000 dunque diventati oggi un unico 1000 dentro la metropolitana, ed è il numero di compleanno epocale, ed è quello che al primo genetriaco ebbe ad avere la firma e il marchio dello scrittore, il cui cognome, traslitterato in lingua araba, non cambia, Leonardo Sciascia. 1000 dunque. Ed erano oggi in viaggio verso il Salone del Libro, nel nome di chi realizzò questo avamposto di pensiero, di libertà, di critica e di fantasia. Il titolo è La memoria di Elvira, e sono i 1000 libri della collana di Sellerio. E quindi auguri a questi 1000. Siamo d'accordissimo, fantastico. E proporrei un applauso a Sellerio. Mario, andiamo in Inghilterra? Sì, sempre un'altra isola in fondo. Beh, certo. Ok. Qui. Mezza la Tardelli che balla su Brown Sugar, guarda. Visto? E allora si vota, I seggi sono aperti, chi vincerà? Lo si sa. Bella partita. Sono le elezioni probabilmente tra le più incerte sicuramente che la storia ricordi. C'è un lievissimo vantaggio dei Tories, parliamo di sondaggi, quindi. Sì, va bene, ma insomma, sarà una sorpresa. Comunque, chiunque arrivi primo qua, la situazione pare questa. Nessuno avrà i numeri per formare il governo. E quindi ci saranno governi di coalizione, fase di instabilità, le borse già non prendono bene la cosa. Niente che riguardi la Thatcher o Blair, che erano esempi diversi. Che erano esempi di gente che divideva, amata odiata, ma insomma, Lady di Ferro vinse nel 79, nell'83, nell'87, Blair nel 97, nel 2001, 2005. Parliamo di gente che aveva una grande leadership. Ricordo che servono 326 voti su 650 e se non c'è l'accordo si torna a votare entro l'anno. È successo solo due volte nel XX secolo. Posso fare un commentino finale? Certo. Sembra l'Italia, con o senza Italicum. Elezioni. E questo vuol dire che la legge elettorale, Giovanni, come dicevamo prima, non esiste quella perfetta. Esatto. Salamino! E forza Italicum, per dirla con Vincino. Ma la domanda che si pone adesso è questa: come fa un interista a diventare un milanista? Ecco, la reazione potrebbe essere questa. E la Lega, dice Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, è un partito identitario e quindi l'appartenenza viene prima della convenienza. Ma il Forza Italicum impone di fare questo ragionamento, cioè come fa, al contrario e quindi nel viceversa, un milanista a diventare un interista? Allora, Silvio Berlusconi lancia l'idea del partito all'americana, ne faccio un tormentone, ed è quello dei repubblicani, è il più galantuomo di tutti, che oltretutto è anche il più americano di tutti quanti, già tessera numero 2 di Forza Italia, e sto parlando di Antonio Martino. Che cosa dice? Verrebbe da mettere insieme Labinetti e Pannella, insostenibile. E poi questo grande partito dovrebbe reggersi su che cosa? Sulla leadership, ma la leadership non c'è. E quindi si va ad un ragionamento che il centrodestra non ha più un leader, a meno che il leader del centrodestra sia Matteo. Quale Matteo? Ma quale Matteo? E tu? Non è questo Matteo. Aspetta. Niente Matteo. Allora, l'altro Matteo dovrebbe essere chi? Matteo Renzi. Perché lui, perché con l'Italicum che ha tracciato il solco, c'è Berlusconi che lo difende. Renzi quindi si è assicurato una vittoria oggi, domani, domenica, lunedì. Vabbè, e vedremo. Quindi il rapporto suo, dimmi. No, che il Partito Repubblicano fa le primarie, certo. Qualcuno informi chi lo vuol fare. Ma figurati, cioè, quello è un partito proprietario, già è fallito, è fallito il PDL, vuoi che possa riuscire questo Partito Repubblicano? Manca un pretendente. Mandiamoli il ritagli di stampa, allora, sulla corsa dei repubblicani, fanno le primarie, notizia. Va bene, può darsi che facciano le primarie. Va bene, Mario, ti candidi alle primarie? No, sei tu il nostro candidato, lo sai, sempre. Però c'è un dettaglio. Io non sono democratico. Ah, vabbè, ma non è detto che lì, insomma, non si sa bene come. Hai detto che è un partito privato. E certo. Sara, cosa ci racconti oggi? Ho un sassolino nella scarpa. Che mi fa tanto, tanto male. Batto il piede in su. Ecco. Oggi non posso non occuparmi di una notizia che ha fatto il giro delle televisioni, dei giornali e del web. Una notizia che ha indignato, ha preoccupato e ha diviso gli italiani. Perché Gabriel Garco si è ritoccato con il Botox il suo volto perfetto? Cosa ridi? Vedi, questi qui famosi non hanno altro a cui pensare che il loro aspetto fisico e poi hanno tutto e non si accontentano mai di niente. Sto citando solo i commenti più educati. E invece, colpo di scena, l'immagine del volto deturpato dal Botox è finta, ma proprio finta. Qualcuno ha postato in rete una foto dell'attore ritoccandola, ma la cosa che un po' mi inquieta è che nessuno ha pensato, per esempio, di chiamare Garco per verificare la notizia. Di fare i giornalisti. Certo, è faticoso fare i giornalisti. Certo. Garco, quindi, è ancora bello, per fortuna, e noi italiani siamo sempre uguali, invidiosi e frustrati, incapaci di rispettare la bellezza e il successo degli altri. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. A questo proposito, devo leggere un SMS che proprio entra perfettamente. Elia Kukovac scrive: Minoli, ma per caso suo nipote, questo ragazzo di Job Your Life di cui continuate a dare spazio? No, non è nostro o mio nipote, è uno degli agenti del cambiamento, dei nuovi mille che noi cerchiamo di sponsorizzare perché ci sembra una cosa importante. Chi fa, è giovane, cose significative, va aiutato. Grazie. Pubblicità. Mix 24. Il canzoniere. A peggior sì, come al popol tutto, favola fu di gran tempo, onde e sovente, di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi, e il conoscer chiaramente, che quanto piace al mondo è breve sogno. 800240024 numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Mario, la tua bolla. La sigla di James Bond perché... Sì, vediamo. La sigla di James Bond perché dobbiamo parlare di servizi segreti, di intelligence, e qua bisogna un po' tirare le fila di quello che sta succedendo a livello globale, che ci riguarda da vicino, perché i timori di atti terroristici hanno accelerato la riforma delle agenzie spionistiche di mezzo mondo, sì. O meglio, ne hanno moltiplicato i fondi, è aumentato la segretezza delle azioni, è espanso in maniera incredibile i poteri di sorveglianza sui semplici cittadini. Ieri la Camera in Francia ha dato il via alla nuova legge, se andate a leggerla nel dettaglio, sì, è molto hanno forte. Poteri enormi, praticamente assoluti. Assoluti o quasi. Il Canada ha fatto lo stesso e ha addirittura autorizzato per la prima volta nella storia. E noi stiamo per raccontare nei prossimi giorni la storia dei servizi segreti del mondo. Sì, Dicevo, il Canada ha autorizzato perfino l'azione degli 007 all'estero, cosa che prima per loro non era possibile. In Italia c'è stato un decreto che ha riformato parecchia roba, la gente non se ne è accorta. Dibattito scarsissimo, un vero buco nero. Non sappiamo letteralmente che cosa possono e che cosa non possono fare i servizi segreti italiani sulle nostre comunicazioni. Sappiamo solo che è un provvedimento fortemente invasivo che di fatto autorizzava chiunque dei servizi a entrare o l'autorità giudiziaria, diciamo, a entrare nel tuo computer, è stato bloccato all'ultimo momento da Renzi. Ma per il resto è buio fitto, Quindi io, insomma, non è Orwell, ma siamo vicini. Salamino. La vita è un ballo fuori tempo. È il romanzo di Andrea Scanzi. È arrivato in libreria, è già un successo, e questa musica serve a immaginare che ci sia bisogno più di Amici miei per capire, conoscere e raccontare questa storia, dove incontriamo il massone buono, dove incontriamo una staffetta partigiana, dove incontriamo poi perfino un governo perfetto. Insomma, che cos'è la vita in un ballo fuori tempo? Andrea Scanzi, buongiorno. Buongiorno a voi. È il tentativo anzitutto di ritrovare la sintonia, di ritrovare i sogni, gli ideali e le utopie che caratterizzavano i personaggi magari quando erano un po' più giovani. Io all'interno di questo romanzo cerco di seguirli per una settimana, li troviamo a inizio libro in un modo, sono tutti più o meno spenti, soprattutto il protagonista 45enne, alla fine però avranno tutti un moto di orgoglio, di speranze, addirittura faranno nel loro piccolo una rivoluzione, e a farla di più saranno i vecchietti, i nonnetti, che io in effetti accomuno un po' agli amici miei di monicelliana memoria, perché fanno ridere, fanno sorridere, ma sono anche molto amari. Ma chi è Tullio Stelvio Bacarozzi? Nel mio libro, che racconta un paese immaginario, è il Presidente del Consiglio, è un personaggio tronfio, caricaturale, brutto, arrogante, protetto da tutti i giornalisti, con delle vene dittatoriali. Io l'ho inventato, se poi qualcuno ci vorrà vedere dei punti di contatto con il Presidente del Consiglio, non sarà colpa mia, ma forse del Presidente del Consiglio. Ma scusami, io proprio ci voglio mettere un po' di camurria mia, essendo inventato il personaggio, però la realtà almeno due esempi ce li offre, quali dei due? Sicuramente il Presidente del Consiglio qualche punto di contatto ce l'ha, è inutile che lo nasconda, e quando io esaspero certi difetti che ha il giornalismo italiano, che corre in soccorso del vincitore, capita nel mio romanzo ma capita anche nel paese Italia. E poi c'è un ministro, anche quello abbastanza caricaturale, il ministro delle riforme del bene, che scandisce le sillabe perché si dimentica lei stessa quello che deve dire. Anche lì, se qualcuno ci vuole vedere dei punti di contatto con il ministro delle riforme attuale, io non mi discosto, non mi dissocio e non dico né sì né no, sta al lettore sceglierlo. Bene, grazie ad Andrea Scanzi. E quindi questi simpatici vecchietti, uno dei quali lo immaginiamo nelle fattezze di un Sandro Pertini quasi, li vogliamo tutti in un sabato italiano. Sembra un sabato qualunque. Mario? È una bolla un po' robotizzata. Ah. Bello, robot rock dei Daft Punk. Segnalo una cosa: l'artigianato italiano può avere un grandissimo impulso dall'uso di stampanti 3D. C'era un ottimo reportage dal Nord Italia di Bloomberg Business, l'ho letto stamattina, e uno studio di Prometeia dice che le piccole imprese artigianali italiane con l'uso delle stampanti 3D possono accrescere i propri ricavi fino al 15%. Parliamo di 16 miliardi di euro, non proprio niente. Insomma, sono, come dire, è la sentenza della Corte Costituzionale praticamente. Esatto. Dopo il giornale radio, come sempre, ci sarà la storia. Che storia raccontiamo, Marina Milone, dopo il giornale radio? Sono passati 37 anni dall'omicidio che ha cambiato la nostra storia, ma soprattutto da un caso che resta ancora oggi uno dei grandi misteri italiani e sul quale si è aperta l'ennesima commissione d'inchiesta. È il caso Moro. E il nostro racconto oggi cerca di ripercorrere le linee d'ombra, i punti ancora oscuri, dal rapimento fino alla fine dei 54 giorni di prigionia. Bene, dopo il giornale radio, la storia del caso Moro. Prima della pubblicità, Parlami d'amore dei Negramaro. Parole. Dimmi se c'è ancora